Mezzogiorno di mercoledì 12 marzo, se ci state ascoltando in diretta dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 oppure in differita quando vi pare, se ci state ascoltando dal sito ondarossa.info dove potete anche trovare le vecchie puntate di questa trasmissione e la sigla Bice Makin di Subsonic Voodoo vi dice che quella che sta per cominciare è una nuova puntata dell'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia centrale. Nella puntata di oggi usciremo dall'Asia centrale, andiamo a parlare un po' di Italia anche, ma prima volevo dare un aggiornamento non relativo al tema di oggi, però se avete recentemente ascoltato la radio avrete sentito delle corrispondenze dall'Asia centrale, dalla Francia, che vi parlano della situazione delle organizzazioni per i diritti delle persone queer all'interno soprattutto del Kazakistan. A fine febbraio era stata arrestata la presidente di un'associazione lesbica molto importante qui in Kazakistan, lei si chiama Jonar Sekerbayeva, era stata arrestata durante una manifestazione che chiedeva giustizia per il caso Saltanat Nukenova, che era questa donna che è stata ammazzata dal compagno ad Astana alla fine del 2023. Il compagno è un ex ministro del governo Nazarbayev, si chiama Bishimbayev. Avevamo coperto questo tema, in Italia c'erano state delle mobilitazioni organizzate dalla comunità delle donne kazake presenti sul territorio. La Sekerbayeva stava partecipando a un'iniziativa in cui appunto si chiedeva giustizia per Saltanat verso la fine di febbraio ed era stata arrestata per una decina di giorni, fondamentalmente con l'obiettivo di tenerla lontana dalle celebrazioni dell'8 marzo. L'8 marzo in tutti i paesi dell'ex spazio sovietico è considerata una festa nazionale, istituzionale, ci sono delle mobilitazioni di stampo istituzionale, però chiaramente la mobilitazione che si sta cercando di organizzare da un po' di anni ad Almaty è invece di matrice transfemminista e quindi questa è la maniera in cui le autorità hanno fermato il lavoro di questi gruppi. Jonar è stata rilasciata, se non sbaglio ieri o forse il giorno precedente, e quindi diventa evidente che l'obiettivo era proprio quello di tenerla lontana dall'8 marzo. Se non avete seguito questa vicenda, vi invito ad andare ad ascoltarvi le corrispondenze sul tema, le trovate sempre sul sito ondarossa.info e vi potete fare un'idea di qual è la situazione appunto dei movimenti dedicati alla difesa delle comunità queer, LGBTQ+, e anche la difesa dei diritti conquistati dalle donne. Bene, questo era l'aggiornamento per oggi. In realtà oggi non andiamo a parlare dell'8 marzo né delle donne. Mi rendo conto che forse dovrei dedicare una puntata a che cos'è l'8 marzo in questa parte del mondo, perché si connette anche in maniera interessante al discorso sulla Seconda Guerra Mondiale, cioè sono molto presenti le figure femminili all'interno, no, del Pantheon degli eroi della Seconda Guerra Mondiale, in tutto lo spazio ex sovietico, però magari lo facciamo in un altro momento, perché oggi in realtà torniamo di nuovo a parlare di linguistica con un aggiornamento dal Kazakistan, del fatto che è stata allungata la tempistica per passare al nuovo alfabeto. Vi ricordo che originariamente l'alfabeto cirillico doveva essere passato al latino all'inizio del 2025. Questa cosa non è successa e stiamo ancora tutti scrivendo in cirillico. Dopodiché le tempistiche si erano allungate fino al 2028 e recentemente il governo ha di nuovo allungato la deadline, decidendo di arrivare al 2031, quindi verso la fine del 2031 il passaggio all'alfabeto latino dovrebbe essere completato. Il passaggio alla nuova ortografia ovviamente è complicato dal fatto che gestire un progetto di pianificazione linguistica di queste dimensioni sull'intero territorio di una nazione, no? Con una lingua con, si stima, circa 20 milioni di parlanti, ovviamente non è facile. Non è facile perché coinvolge soprattutto persone anche di età diverse, chiaramente fare una riforma scolastica per imporre il nuovo alfabeto richiede un sacco di mobilitazione, richiede una capacità organizzativa non indifferente, dovete riscrivere l'interezza dei testi, sviluppare nuove risorse, eccetera. Però tutto sommato i bambini che impareranno la nuova scrittura acquisiranno, no, la tecnologia della scrittura insieme al nuovo alfabeto, quindi cioè, è difficile da un punto di vista della preparazione dei materiali, però per i nuovi scrittori, per i nuovi scriventi, non c'è differenza, no, tra l'apprendere il cirillico e l'apprendere il latino, però per le persone che invece già possiedono, no, la capacità della scrittura, hanno già acquisito questa tecnologia, questo richiede invece di cambiare un sistema a cui appunto sono abituati. Abbiamo già parlato in passato di quelle che sono tutte le problematiche legate da un punto di vista più tecnico, no? Di produzione delle risorse, di gestione del cambiamento alla pianificazione linguistica dell'ortografia, per cui se vi interessa andate a risentirvi la vecchia puntata in cui ne parlavamo, però oggi invece mi interessava parlarvi di chi sono i gruppi che gestiscono questo tipo di pianificazioni linguistiche. Andiamo subito a fare una pausa musicale, ma a tema linguistico. Questa è una canzone famosa tra molti studenti di linguistica quando stanno imparando l'alfabeto fonetico internazionale, perché contiene una serie di consonanti, di suoni che sono molto poco comuni all'interno delle lingue indoeuropee e che invece sono comuni all'interno delle lingue africane. Questi suoni si chiamano i click, sono delle consonanti che vengono prodotte ostruendo due punti all'interno del vostro canale orale, e quindi c'è un rilascio, no, di aria che succede in due momenti. Come ho detto, sono dei suoni che non esistono come consonanti all'interno delle lingue indoeuropee, ma sono invece tipici delle lingue dell'Africa. In particolare la canzone che andiamo a sentire viene chiamata in inglese The Click Song, la canzone dei click, ed è invece una canzone tradizionale in lingua Xhosa, una lingua del Sudafrica, in cui invece si chiama Nkokotuane, dove il click è il primo suono che ho prodotto. All'interno di questo titolo, che vuol dire, se non sbaglio, la canzone del maggiolino, È una canzone che porta fortuna nei matrimoni. All'interno di questo titolo ci dovrebbero essere due click, ma il primo è in posizione iniziale, per me è molto più facile da produrre del secondo, che è in posizione centrale e non riesco assolutamente a dire l'intera parola mettendo i due click nella posizione giusta, che è quello che Miriam Makeba ci dice essere il problema dei parlanti bianchi di inglese del Sudafrica, e il motivo per cui ultimamente la canzone non viene chiamata col suo nome tradizionale in inglese, ma viene chiamata la canzone dei click. Sui click, cioè, per capire cosa siano, in italiano e in tantissime lingue in realtà, in altre lingue dell'ambito mediterraneo, noi possediamo questi suoni, ma non li utilizziamo come consonanti. Li utilizziamo per altri significati, per fare altre cose. Ci sono due suoni in particolare, due click in particolare che potreste saper produrre. Uno è il click dentale. Nelle culture del Mediterraneo viene utilizzato spesso per dire no, questo è il suono che fa così, quando volete dire no senza dirlo, quindi soltanto con l'uso di un click dentale. Il secondo click che a volte utilizziamo è quello laterale, che nelle culture del Mediterraneo viene associato al richiamo degli animali, lo potreste utilizzare per far arrivare degli animali, in particolare i cavalli, mi sembra come associazione, però magari non soltanto, ed è solo un'associazione che ho io. Questo è il suono che si sente così. Nel primo caso sto ostruendo la parte dietro i denti. Nel secondo caso sto ostruendo il lato della bocca. Io in particolare lo faccio ostruendo il lato sinistro, non sono capace di fare questo suono ostruendo il lato destro. Non so però se c'è una differenza tra i due lati o se invece dipende soltanto, soltanto da voi. Stavo dicendo, però, questi appunto sono suoni che noi utilizziamo proprio come parole, potete immaginarvi, all'interno delle lingue africane, della lingua Xhosa, quella appunto di questa canzone, sono delle consonanti. Questo significa che esistono parole che possono essere distinte l'una dall'altra solo per la presenza di questa consonante, fanno parte dell'inventario fonemico della lingua. Per esempio, per capire co cosa significa, pensate alle due parole italiane, fatto e gatto. No, beh, questa non è un buonissimo esempio, però pensiamo alle due parole fatto e gatto. Noi possiamo distinguerle soltanto per un suono, il suono iniziale, la F, e il suono G. Quindi questo significa che all'interno dell'italiano i due suoni F e G sono consonanti che hanno senso all'interno del sistema, dell'inventario fonemico. All'interno della lingua Xhosa ci sono parole che possono essere distinte dalle altre per la presenza dei click. Il motivo per cui ho detto che questo non è un esempio bellissimo è che in teoria nella ricerca linguistica ha più senso fare questo tipo di paragoni tra consonanti che vengono prodotte in punti simili della bocca. La G e la F sono due suoni molto diversi, quindi non è strano pensare che esistano entrambi in una lingua, quindi avrei dovuto comparare qualcosa di simile, come per esempio la lettera, cioè il suono f di fare e il suono v di verificare. Questo sarebbe stato un paragone migliore, però non mi sono venute in mente parole che fossero identiche tranne per quel suono. Ve lo lascio come esercizio per durante la canzone, quindi andiamo ad ascoltare la versione di questa canzone tradizionale Ngogotuane, The Click Song, registrata da Miriam Makeba. In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the Click Song by the English, because they cannot say Ngogotuane. Igqirha lendlela nguqongqothwane Igqirha lendlela kuthiwa nguqongqothwane Igqirha lendlela hayo nguqongqothwane E quindi passiamo alla puntata di oggi in cui vorrei parlare con voi degli istituti regolatori della lingua, che sono anche più normalmente conosciuti come le accademie nazionali di lingue. Mi avete sicuramente sentita un sacco di volte dirvi questa frase, che quando stiamo parlando di lingua stiamo parlando di parlanti, e mi sembra interessante, diciamo, forse sistematizzare, no, una serie di argomentazioni che ho in testa da un po' di tempo su questo tema di qual è il ruolo delle accademie della lingua. Più che altro perché so che chi mi sta ascoltando non ha problemi a immaginarsi il fatto che delle istituzioni siano a difesa dello status quo, però una posizione che le accademie di lingua nazionali in Europa prendono molto spesso con rispetto al loro operato è quello di dire che il loro operato è completamente apolitico, e questa in particolare è una posizione che la nostra Accademia di Linguistica di Difesa dell'Italiano, l'Accademia della Crusca, ha da sempre preso in maniera molto forte, e molto più forte ancora in anni recenti, perché il suo ex presidente Claudio Marazzini è una persona che crede fortemente nel ruolo di direzione apolitico, scientifico, oggettivo e qualunque altro aggettivo voi vogliate utilizzare dei linguisti, e va spesso, cioè io ho letto spesso suoi interventi pubblici in cui lui si rivendica questa neutralità politica delle direzioni che l'Accademia dà al di fuori. E quindi volevo parlarvi di, appunto, alcune differenze che ci sono all'interno di varie accademie linguistiche nel mondo in termini di quelli che sono gli obiettivi che si prefiggono, e poi anche in termini di qual è il livello di potere e di controllo che possono avere sulla comunità dei parlanti. Mi sembra interessante farlo per noi italiani, parlanti di italiano, più che italiani, per noi parlanti di italiano è interessante da fare perché l'Accademia della Crusca è l'accademia più antica del mondo. Quindi l'italiano è la lingua che da più tempo ha stabilito la necessità di avere un ente esterno che decida come indirizzare la lingua. E questa cosa in Italia succede, e qui quando vi parlo d'Italia, cioè vi sto parlando dello stato della Toscana, no? Perché l'Accademia della Crusca è un'istituzione che nasce a Firenze, però è interessante perché in Italia noi abbiamo questa idea, no, dell'importanza di avere una connessione tra una lingua e uno stato nazionale molto in anticipo rispetto a quando verrà sviluppata all'interno del resto d'Europa. Io vi ho detto in passato, quando abbiamo parlato delle lingue nazionali, della questione delle lingue nazionali nell'Unione Sovietica, che quest'idea, no, che esista una connessione tra una lingua e una nazione è tendenzialmente un'idea codificata dalla filosofia romantica di stampo tedesco, che poi viene ripresa dalla linguistica indoeuropea, e vi avevo parlato, no, anche nella puntata che abbiamo fatto con Sumar, il linguista georgiano, un paio di puntate fa vi avevo detto come quest'idea si scontra, no, invece con l'idea di una di uno stato multilingue come quello che era l'Unione Sovietica prima, e poi tutti gli stati, no, che sono nati dalla disgregazione dell'Unione Sovietica. Ma in realtà noi in Italia quest'idea ce l'abbiamo da prima, e ce l'abbiamo, diciamo, le discussioni sull'italiano come lingua nazionale, e anche di quale dovrebbe essere lo standard dell'italiano, perché l'italiano ovviamente è diverso, no? Regionalmente marcato, ci sono delle varietà regionali che hanno dignità letteraria già all'epoca, però queste discussioni nascono nel 1400 all'interno, no, di studi sulla questione della lingua, l'Accademia viene fondata poi nel 1583, quindi stiamo parlando di quasi 500 anni fa. Viene fondata a Firenze e si dà questo obiettivo iniziale, poi gli obiettivi cambieranno nel corso della storia, però l'obiettivo iniziale è quello di preservare la bellezza del volgare fiorentino. Il volgare fiorentino identificato come la versione che viene utilizzata dagli autori del 300, quindi stiamo parlando in particolare di Dante Petrarca e poi Boccaccio nella prosa. Questo per dirvi che, non so se state cogliendo, no, quest'idea che comunque siamo alla fine del 1500 e già alla fine del 1500 qualcuno pensa che la lingua italiana sta venendo corrotta e deve essere ripristinata la sua gloria iniziale, che è quella del 300. Queste discussioni, tra l'altro, in realtà erano già iniziate nel 400, cioè già dal 400 ci sono grosse discussioni in quella che viene chiamata la questione della lingua italiana, in cui si esprimono posizioni, in cui appunto si piazza nel 300 il momento d'oro, no, dell'italiano. Interessante da notare perché queste discussioni, no, sulla decadenza della lingua sono qualcosa che ci accompagna da sempre, cioè è normale che tra generazioni diverse ci sia quest'idea che la lingua sta andando sempre peggiorando. Tra l'altro non sono riuscita a ritrovarlo per la puntata di oggi, ma se non sbaglio questo pezzo era di Aristotele. C'è un pezzo in cui uno scrittore, un autore greco famoso, e mi pare fosse proprio Aristotele, però potrebbe essere Platone, si lamenta del fatto che l'avvento, no, della scrittura, la maggiore disponibilità della tecnologia della scrittura, rende i giovani d'oggi incapaci di comunicare e la lingua ne sta perdendo. Quindi, diciamo, quest'idea, no, che i giovani d'oggi non parlano più come una volta, arriva fin dalla notte dei tempi. Semmai, forse me lo sono inventata quel pezzo, ma semmai lo ritroverò, ve lo linkerò nelle note di questa puntata. Però, diciamo, quindi all'inizio della sua storia la Crusca si pone come obiettivo quello di fare una difesa della purezza linguistica del 300. Dopodiché, si danno come prossimo obiettivo nel 1600 quello di scrivere un dizionario. Questa è l'edizione del 1612 del vocabolario degli accademici della Crusca. Inizialmente l'Accademia aveva un carattere un pochino più giocoso, almeno nei suoi incontri, no? I fondatori avevano una serie di soprannomi tutti legati al concetto di pulizia del grano, perché il nome dell'Accademia della Crusca deriva da questa operazione di separazione delle parti della spiga di grano tra quelle buone e quelle non buone, no? Quindi la parte cattiva è la crusca e la parte buona della lingua invece è la farina. Quindi l'Accademia deve fare questa operazione di separazione della lingua buona dalla lingua cattiva. Nel 1600 l'obiettivo della crusca si espande e vanno a formare il loro primo dizionario pubblicato nel 1612. Questo è un passaggio politicamente importante perché la creazione di un dizionario è un'operazione in parte politica, di pianificazione linguistica. Ci sono tanti linguisti con cui, se andate a parlare di questo argomento, vi diranno che questa cosa non è vera, che un dizionario è assolutamente una rappresentazione oggettiva, eccetera, però semplicemente sappiamo, se invece abbiamo un approccio un pochino più antropologico, che essendo questo un artefatto umano che va a rappresentare il mondo reale attorno a noi, non potrà mai essere una rappresentazione al 100% accurata. Un dizionario, io spesso faccio la metà, per spiegare cosa sia, di dire che il dizionario è il codice penale della lingua, nel senso che per voi che mi state ascoltando, immagino che nessuno di voi si stupirà nel pensare che se una cosa non sta all'interno del codice penale ed è legale, non significa che sia giusta, e questa cosa è la stessa cosa che succede in un dizionario. Il dizionario codifica dei rapporti di potere all'interno della società perché decide che cosa può essere utilizzato come lingua standard e cosa no. Questo significa che ci sono dei casi in cui terminologie che vanno a parlare, no, di campi semantici di cui noi pensiamo che non sia importante parlare o di cui l'istituzione pensa che non sia importante parlare, semplicemente non finiscono nel dizionario e poi si possono trovare delle motivazioni più o meno scientifiche per giustificare il perché le abbiamo lasciate fuori. Lo menziono perché questa è la maniera in cui si costruiscono i dizionari. Nel contesto della documentazione linguistica, quello che capita tipicamente è che un ricercatore, spesso che arriva dall'Europa, o dagli Stati Uniti, va all'interno di una popolazione, di una comunità indigena e inizia a costruire una lista di parole che vengono utilizzate. E come decidiamo quali sono le parole da documentare? Beh, sicuramente si inizia pensando in termini di frequenza, ci sono delle parole che noi utilizziamo più di altre, quindi andiamo a documentare magari i termini relativi al cibo, i termini relativi alla famiglia, i termini relativi all'agricoltura, questo tipo di terminologia, perché sappiamo che è comune che ci siano. Siamo arrivati al punto in cui abbiamo delle liste di parole che sappiamo essere comuni, che quindi quando iniziamo a fare la documentazione di una lingua che non è stata documentata fino a questo momento possiamo utilizzare come base. Però poi succedono ovviamente, cioè c'è un'evoluzione storica delle lingue, questo significa che potrebbero esserci situazioni in cui le persone non hanno sviluppato per esempio dei termini nella loro lingua madre per parlare di fenomeni che hanno vissuto. Un caso molto comune in tante lingue del Sud America è che all'interno dei dizionari creati dai linguisti per parlare, no? Per documentare queste lingue non ci sono i termini per schiavitù. Significa che queste lingue non sanno parlare del fenomeno? Probabilmente non è credibile che queste lingue non sappiano parlare del fenomeno, stiamo parlando di lingue che hanno vissuto la colonizzazione da parte dei parlanti di spagnolo. Questo significa che chi ha costruito il dizionario non ha pensato che questa parola fosse importante. E questo quindi ci riporta al fatto che chi costruisce il dizionario ha il potere di decidere cosa sta dentro la lingua e cosa sta fuori dalla lingua. Questo è un I would say, non so perché mi è venuto in inglese, io direi che questo è un potere politico, è un'operazione di tipo politico, però ovviamente invece la posizione, non vi stupirà, dell'Accademia della Crusca è quella di dire che invece non lo è. Loro costruiscono il loro dizionario giustificando i termini che ci entrano nel senso che se sono stati adottati dalla comunità dei parlanti, quindi se l'uso di un termine è abbastanza diffuso, allora il termine si può considerare parte della lingua e qui vedrete già il problema di che cosa significa essere molto diffuso, perché tra quali parte della popolazione deve essere un termine diffuso per essere considerato diffuso in italiano, ovviamente dipende, cambia tantissimo a seconda di quali sono le fonti che utilizzate. Se voi andate all'interno di un corteo in Italia oggi, vedrete che la schwa viene utilizzata tantissimo, i termini relativi al genere vengono utilizzati tantissimo, ma il fatto che non vengano utilizzati sui giornali chiaramente è una decisione di tipo politico che non può che finire all'interno del dizionario. Questo è il caso, appunto, cioè vi dico sui termini di genere, perché recentemente il presidente dell'Accademia della Crusca, Paolo D'Achille, si è espresso sul fatto che alcuni termini relativi alle professioni e ad altre questioni relative al genere non fanno parte del dizionario italiano perché non sono abbastanza diffusi tra la popolazione, e quindi vi dico, no, cioè, senza necessariamente avere una critica nei confronti di questa posizione, però chiaramente voi capite che chi conta come popolazione è una domanda a cui abbiamo risposte molto diverse, ecco, io e il professor D'Achille. Quindi questo, diciamo, diventa il nuovo scopo della Crusca nel 1600 e però dirvi che queste sono discussioni che succedono dalla notte dei tempi, dovete sapere che già nel 1700 gli illuministi italiani criticano la Crusca come un'istituzione pedante e arcaica. In particolare Cesare Beccaria è un grandissimo detrattore della Crusca, considera che il lavoro che stanno facendo è appunto un lavoro di pedanteria e posizionamento ideologico sulla lingua italiana, e io penso che in questo lui avesse ragione nel riconoscerlo appunto come tale. Sulla questione del dizionario ci sono dei dibattiti importanti all'interno dell'Accademia, perché non tutti sono d'accordo nei secoli sul fatto che sia il compito dell'Accademia organizzare il dizionario di lingua italiana. Questo è un dibattito, cioè si In parte è un dibattito scientifico, ma in parte, spero che vi renderete conto, è un dibattito di tipo politico, ideologico, cioè si sta cercando di decidere se questo lavoro di produzione del dizionario va fatto fare dall'Accademia della Crusca, che comunque è un organismo che ha dei rapporti con il governo italiano, ancora oggi ce li ha con lo Stato, cioè è riconosciuta dallo Stato, e ha un mandato nei confronti, no, della lingua italiana, oppure se debba essere fatto invece da dei privati. E questo è quello che succede per un periodo in cui fondamentalmente alcuni degli accademici della Crusca si organizzano in un gruppo privato e si occupano loro del dizionario. Nel 1955 Bruno Migliorini, che è il primo professore di linguistica italiana d'Italia, cioè quindi è il padre, uno dei padri della linguistica italiana, riporta il compito, no, della creazione del dizionario sotto l'Accademia della Crusca. Le più attenti di voi si saranno accorte che ho saltato un periodo storico abbastanza grande tra il 1700 e il 1955, e qui arriviamo a questo fenomeno interessantissimo per cui le pagine Wikipedia, ma anche le pagine internet dei vari gruppi regolatori della lingua italiana in Italia, quando ci raccontano la loro storia, prendono questa decisione interessante, affascinante, diciamo, non politica sicuramente, perché non vogliamo certo essere scettici, non raccontarci cosa succede nei loro gruppi tra gli anni 20 e gli anni 50. Cioè sembra che c'è questo buco nero della storia in cui qualcosa succede, ma non sappiamo cosa. Non è difficile indovinare cosa sta succedendo, perché voi immaginatevi qual è il ruolo che possa avere una un'accademia di difesa della lingua italiana sotto il periodo del fascismo. Quindi l'Accademia della Crusca ha un legato, un'eredità fascista, nel senso che non è stata creata durante il fascismo, ma durante il fascismo ha supportato una serie di decisioni politiche sull'uso della lingua che hanno avuto delle conseguenze, delle ramificazioni grosse sulla maniera in cui parliamo italiano oggi, e che l'Accademia, noto che non si sente di, diciamo, assumersi, no, come responsabilità della decisione, quindi così come anche la Federazione Esperantista Italiana, che è un altro gruppo regolatore di regolamentazione della lingua, che durante il fascismo ha preso delle decisioni controverse rispetto a quello che è il portato dell'esperanto come lingua antifascista d'Europa. Tra gli anni 20 e gli anni 40 il fascismo in Italia inizia una serie di campagne sull'uso della lingua. Alcune di queste campagne sono tre fondamentalmente le direzioni in cui si muove, e noterete che ci sono dei temi che ritornano all'interno delle discussioni in cui oggi viene coinvolta nuovamente la Crusca e l'italiano in generale. La prima direzione è quella dell'unificazione della lingua con l'eliminazione dei dialetti, e possiamo parlare in maniera più delicata di, non lo so, riassegnazione dei contesti d'uso in cui si vuole che l'italiano sia utilizzato in maniera pubblica e i dialetti debbano invece essere utilizzati più a casa, eccetera. Però stiamo veramente parlando di una di eliminazione dei dialetti, perché l'operazione, no, di staccamento dei parlanti dall'uso dei dialetti materni è stata in alcuni casi anche particolarmente violenta culturalmente, soprattutto nei confronti dei dialetti del sud, cioè da dire forse di quelli del nord, delle zone montane e del Veneto, più che invece della zona lombarda e del Piemonte. Quindi la prima direzione di lavoro del fascismo è stata quella di stabilire l'italiano come la lingua unitaria del paese. La seconda direzione è stata quella di combattere gli inglesismi, perché gli inglesismi stanno rovinando la nostra lingua, ma anche perché gli inglesismi hanno un valore antifascista. E questo ce lo dice, per esempio, un autore l'autore, a mio parere, migliore che abbiamo nella letteratura italiana, il mio autore preferito in assoluto, che è Fenoglio. Fenoglio scrive all'interno di Una questione privata e anche del partigiano Johnny. Lui ci parla della sua decisione di studiare inglese in funzione antifascista. Il motivo per cui lui si è iscritto in una laurea di letteratura inglese è quello di dare fastidio ai gruppi fascisti della sua città. Questo valore della lingua inglese come lingua antifascista è qualcosa che magari noi oggi possiamo trovare strano, perché comunque riconosciamo che l'inglese invece ha un valore assolutamente imperialista e sta portando avanti una campagna imperialista nei confronti del resto del mondo. Però l'idea dell'epoca, cioè da alcune persone dell'epoca, non era questa. E questo infatti situa in maniera interessante l'esperanto in Italia, perché l'esperanto è una lingua costruita che viene... nasce da una commistione tra il polacco e molte lingue romanze, quindi ha questa capacità di essere compreso facilmente dai parlanti di lingue romanze soprattutto. Il suo creatore Zamenhof è un medico polacco che pensa di mettere insieme una lingua per l'interezza del mondo, e lui la descrive come una lingua che unisce tutte le lingue del mondo, ovviamente. Tutte le lingue del mondo significa una manciata di lingue europee. Ha una serie di problematiche, l'esperanto degli inizi, soprattutto legate alla maniera in cui decide di gestire, per esempio, le differenze di genere, perché il genere grammaticale femminile in esperanto viene creato a partire dal maschile con una forma che sembra il diminutivo in italiano. Questa è una cosa che... viene tradizionalmente criticata. Ci sono tantissime critiche mosse all'esperanto, ovviamente essendo una lingua costruita, cioè è impensabile pensare che non ci potessero essere, però diciamo nasce con quest'idea di essere la lingua della comunicazione, e devo dire che quando nasce viene presa da tantissimi gruppi comunisti anarchici all'interno del panorama europeo, perché si vede, cioè viene apprezzata questa sua funzione di essere una lingua franca di comunicazione internazionale all'interno dell'Europa. In Italia succede che l'esperanto però viene tollerato dal fascismo, e questo è abbastanza strano come posizione, perché all'epoca appunto l'esperanto viene utilizzato, no, dai gruppi rivoluzionari, dagli antifascisti all'interno del panorama europeo, ma in Italia invece viene portata avanti la sua funzione contro la lingua inglese, e quindi l'esperanto viene suggerito al posto dell'inglese. Siamo un po' un unico come storia, no? Dell'esperanto in funzione di supporto al fascismo. Bruno Migliorini, il padre appunto fondatore della linguistica italiana, era un esperantista e una persona che appunto ha partecipato attivamente alla campagna contro gli inglesi, perché ha proposto tante soluzioni alternative all'uso degli inglesismi, in parole come cocktail, che è stato tradotto come arlecchino, per esempio. Su Bruno Migliorini ci sarebbe poi da dire tantissimo, una persona che ovviamente ha avuto un peso incredibile sullo sviluppo della lingua italiana. Ripetiamo, cioè, che alcune di queste posizioni sulla lingua sono necessariamente ideologiche. Bruno Migliorini vive in Svizzera all'epoca in cui il fascismo inizia, la riassegnazione, no, di alcune materie universitarie. Nel 1938 il Duce crea la prima cattedra di linguistica italiana all'Università di Firenze, avendo lui in mente, lo chiama e lui ritorna nel paese. Quindi diciamo, questa è una persona che sicuramente ha fatto tantissimo lavoro per la linguistica italiana, ma che mi sento di poter dire oggi ha accettato un'ideologia politica e ha accettato di svolgere il suo compito di linguista all'interno di un panorama politico che è quello del fascismo, supportando le campagne del fascismo. Quindi forse una presa di coscienza di quella che è stata la storia, no, della nascita dell'italianistica, dovremmo iniziare ad averla in Italia, e purtroppo invece è una cosa di cui parlano solamente, storicamente hanno parlato i linguisti di area tedesca, tedesca italiana, perché invece sulla, no, sull'emancipazione, sull'uso della lingua tedesca all'interno del della zona del Trentino. Queste persone hanno riflettuto tanto sulla questione del fascismo nell'italiano. La terza direzione di lavoro del fascismo è una che viene solitamente ricordata un po' come forse il novelty joke delle questioni, ricordata di meno, però il fascismo ha avuto una campagna contro l'uso della forma lei come forma formale, questo perché sostenevano che fosse troppo femminilizzante, che quindi gli uomini veri, il maschio italico, non potesse essere chiamato con il lei. Quindi hanno fatto una campagna per l'utilizzo invece del voi, cosa che tra l'altro in alcuni dialetti italiani era la norma, cioè alcune lingue locali italiane. Scusate, questa distinzione tra dialetti e lingue locali ovviamente è anch'essa una cosa politica. Uso dialetti perché è il termine che mi sembra il più facile per tutti da capire, però sappiamo che quelli che vengono chiamati dialetti italiani non sono in realtà derivati dall'italiano, sono spesso derivati dal latino, sono lingue locali, vengono chiamati dialetti per marcare, no, la loro sottomissione in termini di prestigio all'italiano standard. Diciamo, all'interno di queste varietà linguistiche, il voi spesso nelle varietà linguistiche del sud viene usato come norma, per cui non era impensabile pensare che il voi potesse diventare la forma formale. Ci sono altre lingue romanze in cui il voi si utilizza in questo senso, però l'italiano standard invece lo fa con il lei, e viene fatta una mostra a Roma ad un certo punto, che è la mostra anti-lei, con tutta una serie di esposizioni sulla figura standard e diciamo l'ideale platonico di quello che doveva essere il maschio italico, che non doveva essere sottomesso e femminilizzato. Vabbè, quindi potete vedere che almeno il trend della campagna contro gli inglesismi e le campagne contro il linguaggio di genere ci sono sempre stati all'interno della storia linguistica, almeno dal fascismo ad oggi, e vengono riprese oggi. Sempre come discussioni dalla Crusca, che interessantemente però non fa mai menzione del fatto che in passato loro sono stati un'istituzione che ha attivamente collaborato ad alcune di queste campagne, se non come istituzione stessa, perlomeno come singoli membri della Crusca, che come Bruno Migliorini erano assolutamente involucrati all'interno di questo panorama ideologico e di questo obiettivo ideologico. Della creazione dell'italiano. E quindi mi fermo per una pausa musicale, ho parlato tantissimo e poi andiamo a chiudere la puntata di oggi. Vi voglio far sentire, sempre a tema, una canzone antirazzista in un dialetto italiano, non nel dialetto sicuramente che state pensando, perché lo sappiamo che nelle varietà linguistiche del sud c'è un sacco di produzione rap e musicale in generale, è bellissima, siamo ovviamente all'Orda d'Oro grandissime fan di qualunque produzione musicale, no, che usi la commistione di codice, ma oggi invece vogliamo celebrare anche la presenza e la nascita, no, di questi movimenti musicali nei dialetti del nord Italia che sono invece varietà linguistiche su cui, a mio parere, soprattutto nel caso del Piemonte, della Lombardia e anche del Veneto, è molto difficile rivendicarsi con una posizione che non sia nazionalista, perché purtroppo il discorso attorno a queste varietà linguistiche è stato per molto tempo totalmente in mano alla Lega Nord, e quindi fare lavoro con le varietà linguistiche del Nord Italia molto spesso significa anche doversi interfacciare con enti che danno fondi, che fanno parte, no, di questo panorama politico, e questo per esempio ha portato me, ma anche altri ricercatori, colleghe, amiche che conosco, ad allontanarsi dall'eredità storica di queste varietà. Quindi oggi voglio invece celebrare la possibilità di riappropriarsi di queste varietà, facendovi sentire un artista di Varese, rap nero, Disgelo è il suo nome, che ha prodotto questa canzone rap molto bella, e canta lui normalmente in dialetto varesino, e quindi questa è Vacia Pairat. Laissez-moi parler, cinco bici qua tarballa fius. Tagli entra freccia in cata, serva mia che sala su. L'eran sempre artea di denegare il terun. Però in negar pure in tun, la mia vista ancora ni su. Con tua miss, fa grata cu, parla vur, è il mio miss. Ha grata mur, le mie magrito, già perdu tempo a sé. Quindi mo ciapa su andem, ma mi alvo come pe. Si propi su me gambet, ma presenti alla duga. Pur fumone calzet, ma mi su mia la befana, mia ta porti al camel. Al tira avanti la careta, ti te pedalet mia, ma vuri alla bicicletta. Adesso mi cupresa. A ringrassi la buon'anima de nona la madà, la risetta. Mangia beve caga, la sa che la vaga. Di qualche grammada mina tunelada. Da tu che rialza lo standard, sì. Ma te sei sempre ardea mena la gamba. L'hai già fatta mal pur piccinin. Te voleva tucci dal don ciccinin. Tu poter fa una got new semi in sci. Sempre chi semi puse stort mandem sempre trips. Porti ma fe poi cassura. Ogni tusa che mi ascolta va fuera da coni. Assunto un shul prima le rimalura. Te leghe fa da te a vuol dir che allora sa po. G-E-L-O mia il ma de Vares. Che compra volta venda se faccia pairat. Se stai con mia Vareso tu parla ciar. Che su mia chiasco palmar faccia pairat. E le ambra fiume alle mar come un caval. Se porta mia panaca faccia pairat. Ti chiese chi a fanago ma scassa i bar. Faccia pairat, va, faccia pairat. E si le bun come il pan ma se le mia la giornata. Dalla sa sta, faccia pairat, va, faccia pairat. G-E-L-O fra. E questo appunto era Disgelo con una canzone Vacia Pairat in dialetto della città di Varese. Oggi, cioè perché oggi abbiamo parlato di questo argomento, no? Oggi mi sembra che normalmente faccio divagazioni linguistiche, oggi facciamo la divagazione sull'Asia centrale invece, la puntata era completamente di linguistica. Ultimamente la posizione, no, il lavoro di un'accademia di lingua dipende moltissimo dalla relazione di potere che c'è tra la lingua di cui si sta occupando e il mondo attorno a sé. E quindi quello di cui io oggi vi volevo rendere partecipi è questa idea che il ruolo dell'Accademia di Lingua Baitursinov, che c'è per esempio all'interno del panorama kazako, è un lavoro che tutto sommato noi possiamo interpretare come un lavoro di decolonizzazione, perché il kazako è una lingua che ha sofferto moltissimo la decimazione dei parlanti da parte e la sostituzione con il russo. Molto spesso questa, diciamo, l'arrivo del russo non deve essere necessariamente solamente interpretato come qualcosa che ha che è stato fatto, no, in maniera negativa o violenta, e non voglio dire che non ci sia un lascito culturale all'interno del Kazakistan e di altri paesi anche dell'Asia centrale. Ci sono parlanti di russo, di etnia slava che sono qui da generazioni, perché appunto la composizione dell'Unione Sovietica, abbiamo visto, era molto variegata, e i kazaki di etnia kazaka stessa comunque spesso riconoscono nella lingua russa una lingua che ha un valore culturale per loro importante, è parte della loro identità. Però appunto la relazione che c'è tra il kazako e il russo è che ultimamente il russo, cioè alla fine il russo è la lingua di colonizzazione, e quindi la difesa del kazako standard, del kazako accademico, si può leggere in un certo senso come una presa di posizione del fatto che comunque anche questa varietà linguistica ha dignità di lingua letteraria, e quindi la creazione per esempio di corpora, di dataset linguistici che catturano la varietà standard letteraria viene fatta in questo senso, per dimostrare che il kazako ha la dignità di essere una lingua nazionale. Ora, questa posizione voi capite che è diversa da quella che può avere la lingua italiana, e pensavo che fosse interessante parlarne perché spesso la retorica che viene utilizzata in Italia da chi si fa promotore della della lingua italiana è una retorica che io vedo essere molto simile a quella delle destre quando parlano del politicamente corretto. Cioè c'è una maniera di porre l'italiano come una vittima della globalizzazione, quindi una lingua che sta perdendo parlanti, una lingua che sta venendo eliminata dall'inglese, c'è questa proprio costruzione, no, del ruolo di vittima della lingua italiana sul panorama internazionale. Spesso l'Accademia della Crusca si è fatta promotrice di una serie di iniziative per aumentare il prestigio dell'italiano nel contesto, per esempio, dell'Europa, dell'Unione Europea. Vorrei che però fosse chiaro che queste posizioni vengono prese da un'accademia di lingua che ha avuto un ruolo comunque di tipo coloniale per un certo periodo della storia, perché l'insegnamento dell'italiano all'interno di alcuni paesi dell'Africa come la Somalia, l'Eritrea, l'Etiopia e la Libia non è stato fatto per buon cuore, è stato fatto perché siamo andati a colonizzare queste parti del mondo. E quindi la posizione dell'italiano, cioè no, la retorica del vittimismo rispetto alla lingua italiana, io la vedo come legata indissolubilmente allo stesso tipo di retorica fatto dalle parti egemoniche della società, in cui gente che ha la capacità di parlare, le piattaforme per poter parlare in qualunque contesto, a cui non è mai stato negato il diritto di parola e il diritto a far sentire la propria voce, invece si pongono in un contesto in cui il venirgli richiesto un minimo, no, di empatia nei confronti cioè del resto dell'umanità, dei gruppi marginalizzati, viene a questo punto vissuto come un grandissimo attacco, no, alla loro persona e alla loro agentività e libertà d'azione. E quindi, perché vi ho parlato di questo argomento oggi, no, in una trasmissione sull'Asia centrale? In realtà solo perché non sarei arrivata a finalizzare, a sistematizzare i pensieri che ho, no, sul ruolo dell'Accademia della Crusca se non fossi venuta in Asia centrale. Vi ho detto nella prima puntata questa trasmissione, che ormai è andata in onda più di un anno fa, che io penso che ci sia un valore, no, nel raccontare dell'Asia centrale, perché ci sono delle lezioni che noi possiamo riportare nel nostro contesto dall'Asia centrale. Ovviamente ho una deformazione professionale, vi parlo di linguistica, per cui vi racconto di quello che io penso si possa prendere nel contesto di quello di cui mi occupo io, però io penso che la questione dell'espressione linguistica è ovviamente molto importante, che però la relazione tra le diverse lingue, la maniera in cui si relazionano i parlanti a diversi codici in Asia centrale, fatta con una serie di dinamiche che a me sembrano diverse da quelle che io ho visto in Europa, e sì, non avrei capito come venivano fatte da noi se non le avessi viste da questa parte del mondo, e quindi forse mi lascia quest'idea, no, che c'è una maniera di parlare, appunto, di difesa, dico difesa tra virgolette, ovviamente, della lingua, però l'importanza della lingua italiana, di cosa mantenere, di cosa cambiare, di come parlare delle varietà linguistiche locali italiane, delle lingue di contatto, però anche ovviamente, no, delle lingue che arrivano oggi con la globalizzazione, con le seconde generazioni, con le varietà di heritage che la gente parla, eccetera. E mi sembra che la coesistenza tra lingue diverse, il tipo di relazione che lingue diverse assumono all'interno del panorama dell'Asia centrale, è una maniera di relazionarsi tra varietà linguistiche che sia fatta con retorica che non è razzista, non è fascista, non è imperialista, non è sessista, e che quindi forse potrebbe essere valere la pena riportare all'interno delle nostre pratiche di lotta quotidiana. E quindi questa è la motivazione. E quindi questo era il significato di questa puntata. La prossima volta che sentite o leggete qualche intervento da parte di persone all'interno di un'istituzione linguistica che cerca di convincervi del fatto che il lavoro che stanno facendo non è ideologico, io vorrei che vi venisse in mente che non è possibile. L'abbiamo visto quando abbiamo parlato del multiculturalismo all'interno dell'Unione Sovietica, la tensione tra le lingue minoritarie e la necessità di avere la lingua franca, no? Il codice del russo che viene imposto a tutta la nazione. Abbiamo visto la critica di Marr alla storia, al portato colonialista, imperialista della linguistica indoeuropea. Abbiamo visto le critiche di relativismo culturale che vengono portate a chi cerca di cambiare la lingua, quando abbiamo parlato dei termini del colore blu, e quindi tutti questi pezzettini assieme vi dicono che parlare di lingua equivale a fare un lavoro di tipo ideologico. Non esiste l'oggettività scientifica nel trattare la lingua, e quindi vorrei che questa fosse, questo è il mio augurio, che queste puntate vi siano servite tutte insieme per capire immediatamente cosa sta cercando di vendervi chi vi dice che la lingua è oggettiva, che la lingua è scientifica. Chiudo qui con la puntata di oggi, anche forse un po' con le puntate sulla linguistica. Prometto che dalla prossima tornerò a parlarvi invece di Asia Centrale più nello specifico. Quindi ci sentiamo tra 2 settimane, un abbraccio a tutte, soprattutto a chi ci ha ascoltata privata della propria libertà personale. Questa era Lorda d'Oro, al microfono c'è Strelka e ci vediamo tra 2 settimane. Ciao ciao! Thank you.